America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Let's be clear. Right now, the bipartisan compromise that was reached on Saturday is the only viable way to prevent a tax hike on January 1st. Il presidente Barack Obama molto arrabbiato. Perché? Beh, perché la Camera ha bocciato quella proposta che era già stata passata dal Senato per poter consegnare un regalo natalizio ai lavoratori americani, e cioè un taglio sulle trattenute in busta paga per i contributi sociali non indifferente. Stiamo parlando di quasi $1,500 l'anno per 160 milioni di americani. Questa è stata una battaglia durissima. Barack Obama si era esposto molto. Una delle argomentazioni è naturalmente di tipo economico: poter dare dei quattrini in più in tasca degli americani non potrà che aiutare il processo di crescita. Ebbene, che è successo? È successo che c'è stato un gridlock, un ingorgo classico della politica americana, della politica della capitale, un ingorgo non dissimile a quello che abbiamo visto nel luglio scorso, quando ci fu il tormentone, lo ricorderete, del tetto sul debito, e lì naturalmente la preoccupazione era anche maggiore perché qualcuno temeva che addirittura gli Stati Uniti potessero fallire. Che cosa è successo? Ve lo riassumo brevemente. Beh, è successo che a un certo punto, quando ci si è accorti al Senato che il presidente Barack Obama voleva questi tagli per un anno, così pure li volevano i repubblicani al Senato, ma diciamo non erano davvero d'accordo su come finanziarli questi tagli, perché i repubblicani volevano che ci fossero dei tagli anche sugli esborsi del governo, in particolare sugli esborsi delle spese sociali, visto che venivano tagliati i contributi sociali. L'amministrazione invece voleva che questi rimborsi fiscali fossero finanziati in altro modo. Insomma, non si sarebbero messi d'accordo. Dunque, visto che si era vicini alla scadenza, al 31 di dicembre, si è deciso di fare un accordo parziale. Rinnovo per 2 mesi e poi nel frattempo si vede come va a finire. Credo che molti di loro volessero anche prepararsi alle vacanze natalizie, alle vacanze delle fine dell'anno. Barack Obama dovrebbe partire a giorni per andare alle Hawaii e fare una lunga vacanza. Ecco, questo ha paralizzato un po' tutto, perché quando poi il progetto di legge approvato, attenzione perché questo è un fatto importante, con una maggioranza di 89 voti contro 10, cioè bipartisan, democratici e repubblicani, forse grazie al Natale e alle vacanze imminenti, hanno trovato un accordo sulla stessa linea per questo prolungamento di 2 mesi, a guastare le feste è intervenuta la Camera. Ma chi ha la Camera? Il Tea Party, perché sono stati soprattutto i Tea Party a ostinarsi a dire no, questo rinnovo deve essere per un anno, e il problema del funding, quindi del finanziamento, che Obama vuole in un modo e i repubblicani vogliono in un altro, lo dobbiamo risolvere subito. Ha scatenato questo voto di ieri, 229 no contro 193 sì, quindi diviso sugli schieramenti di partito, ha scatenato polemiche, devo dire, senza fine. Addirittura Boehner, quando Reid, capo della maggioranza democratica al Senato, ha detto noi ce ne andremo in vacanza, la palla nel campo della Camera, il nostro dovere l'abbiamo fatto, ebbene Boehner, presidente della Camera, ha detto forse Reid dimentica che non è un monarca, questo paese è una democrazia e vuole il dialogo. So obviously political infighting that I think most all Americans are pretty fed up with it. Just another example. È una disgrazia, questo modo di fare politica stufa tutti. I politici credono di poter conquistare un voto in più o in meno, in realtà gli elettori americani non ne possono più e non vedono l'ora di cambiare le cose. Chi parla è Allen Sinai, l'ho intervistato a lungo, non soltanto su quel che è successo ieri a Washington, ma un po' sulle condizioni dell'economia americana, per riprendere il discorso di ieri e per portarlo più sul lato del consumatore. E dunque Sinai mi dà un'interpretazione molto interessante. Per esempio, mi ricorda che la borsa ieri ha chiuso a oltre 12.000, 12.100, un aumento del 2,37%. Come mai questo aumento nel momento in cui Washington sembra essere scollata? Beh, perché, cari miei, dobbiamo renderci conto che la politica, soprattutto in America, soprattutto in questi casi, è scollata dall'economia reale. E questo è un fatto molto importante di cui i politici dovrebbero rendersi conto, e quindi dovrebbero fare molto meglio di quello che fanno in tutte e due le sponde dell'Atlantico per poter far progredire il paese. Perché è aumentata la borsa quando c'era in teoria una notizia così devastante sul piano politico? Ma perché c'è stata la notizia di un aumento delle nuove costruzioni del 9% per il mese di novembre, l'aumento più forte in 19 mesi, un segnale molto positivo, il settore immobiliare era quello in difficoltà. C'è stato un altro segnale positivo, 43 stati su 50 hanno visto un aumento dell'occupazione, quindi piano piano l'occupazione sembra rimettersi in moto. Un Un altro segnale positivo l'abbiamo avuto dall'Europa, le emissioni dei titoli spagnoli sono andate bene, il contagio sembra per un attimo essere sotto controllo. Insomma, cose piuttosto importanti sono successe ieri, molto più importanti di questo litigio a Washington. The consumption will be more solidly based in 2012. Fundamentals of household financial conditions are improving. Ecco, ho chiesto a Sinai di farci un'analisi un po' più dettagliata. Le cose, secondo lui, stanno migliorando. Parliamo dei consumatori. Gli elementi più interessanti sono, secondo lui, un aumento delle vendite d'auto, l'aumento appunto delle vendite delle case e il fatto che le vendite al dettaglio si stiano consolidando. Questo significa, secondo lui, che la ripresa sta andando avanti. Non stiamo entrando in un double dip, come economisti pessimisti, come per esempio Nuria Rubini, sostenevano. E soprattutto osserva che forse dopo anni, perché ormai sono passati degli anni, di liquidità continua immessa dalla Federal Reserve, di politica monetaria facile, di tassi di interesse all'1%, beh, forse a questo punto questa liquidità sta finalmente arrivando al mercato e la predisposizione del consumatore, che era più preoccupata, ricordiamo il vecchio proverbio, tu puoi mettere una fantastica fontana piena d'acqua, ma poi non è che porti il cavallo e dici di bere, se quello vuole bere, beve, se no, no, uguale per il consumatore americano. Ecco, è cambiata secondo Sinai un po' la psicologia. A questo punto il consumatore americano è pronto a bere. They are improving. Not like the good old days, but definitely improving. In the 3-5% range year over year, and the good old days used to be 7-10%. But 3-5% year over year will be better than. Per chiudere, il Natale. Il Natale come sta andando? Beh, devo dire, a giudicare dalle strade, una gran quantità di gente sta facendo una gran quantità di acquisti. Sinai mi dice che in effetti, secondo lui, il Natale sta andando abbastanza bene, anche se non sta andando ai livelli di anni fa, quando potevano esserci aumenti del 7-8% con questi tassi di interesse. Però, secondo lui, un aumento forse del 3, chissà, magari del 5, potrebbe esserci. Ho parlato anche con Agnello Musella del Natale, responsabile dell'ICE, per capire come stanno andando le cose italiane in questo momento in America. Sicuramente la domanda al consumo ha avuto qui negli Stati Uniti un momento di assestamento, di stasi, che fa seguito un po' ai problemi che il consumatore medio americano incontra giorno dopo giorno, dal crollo del mercato immobiliare da un lato, da una minore disponibilità di reddito, quindi tutto ciò chiaramente comporta una maggiore oculatezza nei consumi. Ecco, e questo come si tradurrà, direi, da un punto di vista di impatto sulle vendite al dettaglio nel 2012? Ma si venderà molto nella fase di grossi sconti, quindi nella prima fase di vendita a prezzo pieno il consumatore americano andrà in giro, vedrà, individuerà alcune cose, acquisterà eventualmente su web dove ci sono delle offerte per gli stessi prodotti a prezzi più convenienti, ma aspetterà soprattutto il momento dei grossi sconti per acquistare. Per chiudere, il Natale americano darà soddisfazione ai produttori, ai venditori, ai commercianti italiani? Non come negli anni precedenti, ritengo che in base a quanto sentito anche con molte aziende italiane che hanno i loro negozi anche sulla Madison, non si prevede un incremento dei consumi, quindi ci sono delle prospettive sicuramente non rose. Si cercherà di recuperare dopo le vacanze con i grossi sconti per liberare gli inventari e quindi vendere il più possibile a prezzi scontati. Quindi questo credo sia un po' il quadro che si prospetta in questo periodo di Natale e dopo le vacanze natalizie. Quindi se dobbiamo dare un messaggio ai nostri ascoltatori per fargli capire come funziona in America e cosa devono fare i nostri produttori è: tenete duro. Eh sì, sicuramente tenere duro, perché il mercato americano poi paga sempre alla fine, e il consumo è stata sempre la grossa leva che ha spinto l'economia e continuerà ad esserlo, anche se in dimensione minore rispetto a prima. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, spirito natalizio, come vi avevo promesso all'inizio di questa settimana. Continuiamo oggi, 21 dicembre, il countdown va avanti verso il 25, questa straordinaria interpretazione di Dean Martin. Martin, vero spirito natalizio, Walking in a Winter Wonderland. Until the other kiddies knock 'em down. Oh, when it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets chilling, we'll frolic and play the Eskimo way, walking in winter wonderland. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.